Orizzonti. Fotografie sonore dalla Campania multiculturale. Che lavoro fai? Come ti chiami? Come inizia la tua giornata? Siamo tutti diversi o siamo tutti uguali? Dimmi tre ricordi che porteresti con te ovunque. Quante lingue parli? Qual è secondo te una cosa inspiegabile dell'Italia? Gli alieni ti danno uno speciale raggio laser per togliere la cosa più brutta del pianeta. Che cosa vuoi togliere? Qual è il tuo colore preferito? Cosa vedi all'orizzonte? Senta. Ehi! Chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino. In questo episodio, Precious. Mi chiamo Frank Precious. Lavoro in un ristorante come cameriera e mi occupo della sala. Ho 19 anni e a febbraio faccio 20. La prima cosa che vedo la mattina, la sera è il bellissimo giardino che sta avanti a casa mia, perché è una zona piccola. Vivo a Sant'Angelo, frazione di Mercato San Severino. All'inizio, quando mi sveglio la mattina, vado a lavare i denti e poi faccio la colazione. Dopo la colazione vado a fare alcune cose mie con il telefono e poi faccio la doccia. Dopo la doccia faccio i servizi di casa se non devo uscire dalla casa. Se esco, torno solitamente alle 9:30, 10 e poi mi faccio la cena, poi vado a fare la doccia e dormo. Oppure se sto a casa tutta la giornata, mi faccio la cena alle 8:30 e poi mi ascolto musica preferita. Londra oppure Olanda, perché parlano inglese. No, sono nata in Nigeria e i miei genitori sono nigeriani. Rispondo tranquillamente, dico vengo da Nigeria e sono una nigeriana. Ricordo della mia famiglia e poi dei miei amici di scuola. E poi, ultimamente, di quello di mio ragazzo. Parlo quattro lingue. Parlo quattro lingue, scusami. Inglese, italiano, la mia madrelingua che si chiama Edo. E poi la lingua strada di Nigeria che si chiama Pidgin English. Si chiama Dove e Quando, che è stato cantato da Benji e Fede. Dimmi dove e quando, dimmi dove e quando, da stasera non arrivo in ritardo e non ho più nessuna scusa stupida, non conta neanche il traffico che c'è. Dimmi dove e quando, da stasera non arrivo in ritardo. diversi non posso dire che siamo diversi, neanche uguali posso dire, perché ognuno sono fatti di pensieri diversi. Possiamo avere uguale corpo, diciamo l'altezza uguale oppure la testa uguale, ma il nostro pensiero fa sempre la differenza tra noi. Sì, esistono perché siamo tutti stranieri. Dico così perché se io una nigeriana vado in Italia, sono una straniera. E poi se una italiana va in Nigeria, è un straniero. Comunque, a parte di diversi paesi, anche un'italiana che sta da sud, se va a nord, è sempre un straniero, perché la cultura è diversa là. Pure, diciamo, come comportano il comportamento delle persone è diverso. Ragazzi giovani che fulmano a scuola, a strada, anche avanti il loro genitore, perché per me è una cosa che fino ad oggi non riesco, diciamo, a avere una spiegazione migliore, quindi per me è una cosa spiegabile. Posso dire verso il razzismo, ma prima del razzismo ci sono, diciamo, razzismo vengono dalle persone, diciamo, ignoranti che hanno un potere alto, quindi posso, diciamo, pungere verso i politici. Il colore più bello, posso dire che il colore più bello è l'amore, perché l'amore se mettiamo tutti i colori insieme si danno una significante di amore, diciamo lo stesso significato di amore, perché se in ogni persona esiste l'amore, potremo vivere tranquilla, perché se io ti amo, ti tratto bene, se tu mi ami, mi tratti bene. Quindi per me l'amore è la colore più bello del mondo. Niente, non lo so. Montaggio, regia e suoni di Antonio Cortazzo e Giulio Scalona. Coordinamento tecnico Bahia Lahbub. Per ascoltare e condividere i nostri podcast, vai sulla pagina Facebook di Radio Antenna Migrante o su www.stranierincampania.it. Tram, Radio Antenna Migrante.